Benvenuti ad un nuovo appuntamento dei podcast di Rivista Militare. L'articolo di oggi, tratto dal numero 3 del 2021, si intitola Gioco e fantasia, gli asili nido aziendali dell'esercito ed è stato scritto da Stefano Fiorentino. L'esercito e alla continua ricerca di soluzioni per incrementare il benessere del proprio personale. Tra queste ha un ruolo centrale il supporto alla genitorialità, un'attenzione che nell'ultimo decennio ha portato alla realizzazione di 7 asili nido aziendali all'interno di infrastrutture della difesa. Le strutture educative, oltre a fornire un supporto ai nuclei familiari, migliorano la qualità della vita del personale militare, contribuendo a portare più armonia fra il ruolo del genitore e la vita del soldato, spesso impegnato per lunghi periodi lontano da casa e dagli affetti. L'asilo nido Gioco e Fantasia, presso la cittadella militare Cecchignola, è stato inaugurato dal Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito nell'ottobre 2011 e dal febbraio 2016 l'asilo nido aziendale è gestito dal Comando Comprensorio Cecchignola. Il servizio educativo è affidato ad esperti del settore che contribuiscono a renderlo un luogo di accoglienza, di socializzazione, di educazione e di sviluppo della prima infanzia. La struttura romana, in grado di ospitare 24 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, è molto richiesta e oggi tante famiglie ne richiedono l'accesso in un trend in costante aumento. Ogni anno, al bando per l'ammissione, le domande sono quasi il doppio della possibilità, generando così delle liste di attesa. Utilità della struttura e qualità del servizio offerto, oltre che un rapporto costo-beneficio nettamente favorevole, sono i fattori del successo. Il servizio educativo è organizzato nel rispetto del modello educativo dei nidi e delle scuole d'infanzia, nonché basato su un progetto educativo che accompagna e integra l'opera genitoriale con eventi promuovendo esperienze di partecipazione dei genitori alla vita in asili nido, di aggregazione sociale e di scambio culturale sui temi legati all'educazione. Un progetto complesso e inclusivo, mirato a realizzare un clima di rassicurazione e intimità, condividendo con le famiglie giorno dopo giorno le esperienze vissute dai loro bambini e i progressi di crescita cognitiva in un'età cruciale dove ambiente, sfera affettiva ed emozioni rappresentano elementi fondamentali per lo sviluppo. L'ammissione all'asilo nido aziendale della città militare della Cecchignola, fissata sulla base di criteri di priorità determinati da sede di servizio e forza armata di appartenenza, costituisce un servizio educativo e sociale a domanda e pertanto è soggetto alla partecipazione dei genitori alle spese di gestione. Le tariffe dovute, diverse secondo le modalità di frequenza, sono equiparate alle rette dovute per gli asili nido di Roma e proporzionali all'ISEE con una quota parte a carico dell'amministrazione difesa, che concorre al raggiungimento del costo per posto bambino fissato in sede di affidamento contrattuale. L'asilo nido aziendale, aperto da lunedì al venerdì, articola il proprio orario di entrata e uscita dei bambini coerentemente all'orario di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione difesa, offrendo la possibilità di frequenza in modalità full time dalle 7.30 alle 17 o part time dalle 7.30 alle 14.30. Molte sono le attività e i servizi proposti a partire dalla rilevante e preziosa presenza in sede del pediatra che monitora le condizioni di salute generali, lo sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie e cognitive di ogni singolo utente E ancora, collaborazioni con dietista, psicomotricista e insegnante di musica, realizzazioni di spazi dedicati allo sviluppo espressivo, all'esplorazione e alla creatività dei bambini, laboratorio per l'apprendimento della lingua inglese attraverso la lettura di libri e filastrocche, laboratorio di cucina per promuovere l'educazione alimentare attraverso il gioco. Il tutto integrato da iniziative rivolte anche ai genitori, come ad esempio le gite, le feste a tema, la partecipazione per una intera giornata delle mamme o dei papà alla vita del nido. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato, all'inizio del mese di marzo 2020, l'interruzione del servizio educativo, costringendo a ripensare in toto le modalità organizzative per garantire una successiva ripresa dell'attività in piena sicurezza a tutela della comunità infantile, educativa e genitoriale. Il comandante del comprensorio Cecchignola Generale Massimo Margotti ha ricordato che l'emergenza pandemica è stato un banco di prova per la tenuta dell'intera organizzazione e ci sprona a continuare nell'ottica di ottimizzare sempre più l'offerta educativa. L'asilo nido Gioco e Fantasia è solo un esempio delle iniziative di welfare intraprese dall'esercito che tendono a coinvolgere famiglie e forza armata in un ambiente di vita sano e di aggregazione. Attenzioni concretizzate nel Piano Nazionale delle Strutture Socioeducative dell'Esercito, che prevede la realizzazione di ulteriori strutture, tra cui, in numero significativo, altri asili nido. Un sostegno familiare che contribuisce a rendere i giovani genitori con le stellette sereni, avvantaggiando così anche l'operatività professionale.